Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Emmanuel Carrère è uno degli scrittori, degli intellettuali francesi più famoso al mondo. In particolare ebbe grande successo proprio di pubblico, anche da noi in Italia, con il libro Limonov, che era la storia di un controverso dissidente russo. Ma ci sono stati anche altri romanzi, come L'avversario, ispirato ad un caso di cronaca di un uomo che aveva una doppia vita e aveva sterminato la famiglia, La settimana bianca, La vita come un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Il regno. Nel volume Propizio e avere ove recarsi, pubblicato come gli altri da Adelphi con la traduzione di Francesco Bergamasco, vengono raccolti testi scritti fra il 1990 e il 2014. Sono prefazioni, articoli per giornali, reportage, riflessioni varie. In tutti i suoi scritti, dai romanzi ai pezzi giornalistici, Carrère tende ad esprimere sempre il suo punto di vista, cioè guarda a fatti veri o inventati attraverso il suo particolare sguardo. Un genere che viene chiamato autofiction, di cui Carrère è uno dei massimi esponenti, e così questa raccolta Propizio e avere ove recarsi diventa una sorta di autobiografia. Sicuramente è un libro da cui partire se non avete mai letto Emmanuel Carrère e magari siete incuriositi. Sentiamo allora con che criterio ha scelto i brani da inserire in questo libro. Un criterio très simple, j'ai essayé j'ai rassemblé une grande partie des articles que j'ai fait depuis 25 ans. Un primo criterio molto semplice. Ho cercato di raccogliere gran parte degli articoli che ho scritto negli ultimi 25 anni e ho scelto quelli che mi piacevano di più, molto semplicemente. Ma una volta fatta questa scelta, questo è stato appunto il primo criterio, ho anche cercato di far sì che fosse un oggetto composito, che fosse un oggetto vario, quindi che contenesse articoli di lunghezze diverse su argomenti diversi. Degli articoli, dunque, che potessero alternare soggetti un po' più seri con altri articoli di carattere più leggero. Ecco, ho cercato di creare un qualcosa che non fosse solamente una raccolta di articoli, ma che avesse una sua forma propria. E questo mi ha portato a eliminare alcuni articoli a cui ero anche affezionato, ma avevo l'impressione che non fossero al posto giusto, perché li consideravo, per esempio, ridondanti rispetto agli altri. Voilà, qui trouvaient pas bien leur place, che ils étaient un peu redondants par rapport ad autres. Voilà. Questa raccolta può essere letta secondo alcuni quasi come un'autobiografia. Sappiamo che Emmanuel Carrère mette sempre il suo punto di vista in quello che scrive, nei romanzi, nei reportage, negli articoli. Ecco, questa idea che possa essere un'autobiografia è corretta o no? Oui, oui, tout à fait, une autobiographie ou un autoportrait, si vous voulez aussi un peu comme vous savez ce Sì, sì, assolutamente. Un'autobiografia o un po' anche un autoritratto. È un po' come quel gioco di ritratti cinesi in cui una persona si rivela attraverso i suoi gusti, i suoi orientamenti, le sue preferenze, i suoi interessi. È una sorta di autoritratto in movimento, attraverso delle curiosità che hanno tutte un punto in comune, cioè sono tutte orientate verso il mondo esterno. Mondo esterno che può essere anche rappresentato da oggetti politici, ma talvolta anche dalla letteratura. Des choses politiques, des choses comme ça, que la littérature ou des voilà. Fra i veri testi di questo libro c'è anche quello che ci aiuta a capire, aiuta noi lettori a capire come è nato il romanzo L'avversario, perché ci sono i primi articoli che lei ha scritto sul caso Romand. Dice chiaramente, facendo il paragone con A sangue freddo di Truman Capote, che inizialmente non riusciva a scrivere questa vicenda in modo impersonale, in modo oggettivo. Si è sbloccato solo nel momento in cui l'ha raccontata dal proprio punto di vista. Che cosa le è scattato in quel momento? Alors, il s'est passé ce que vous dites, c'est-à-dire que j'ai essayé pendant des années. Sì, è successo quello che lei ha detto. Per alcuni anni ho tentato di scrivere di questa storia tragica e terribile, cercando di farlo in forma oggettiva e impersonale, un po' sul modello di A sangue freddo di Truman Capote, la cui ombra, a mio parere, aleggia su ogni scrittore che desideri avvicinarsi alla scrittura di un fatto di cronaca criminale. Ma non ci riuscivo per dei motivi che allora non capivo. A un certo punto è successo. È successo dopo 5-6 anni di vani tentativi, in cui avevo deciso di lasciar perdere, provando anche un certo sollievo per aver preso la decisione di abbandonare questa storia terribile. A un certo momento, per un mio uso personale, ho deciso di scrivere una sorta di memo, di diario, per raccontare come era stato provare per 6 anni a scrivere questa storia. E nel buttar giù questo memo, ho utilizzato la prima persona. Mi sono accorto molto rapidamente, non so se si è trattato di giorni o di ore, ma nel giro di poco tempo mi sono accorto che riuscivo a scrivere questo libro che non ero riuscito a scrivere per tanti anni, perché ero riuscito ad accettare l'idea di scriverla in prima persona e di accettare di mettere me stesso davanti a questo oggetto tanto terrificante. De l'écrire à la première personne et d'accepter, disons, de me placer moi-même devant cet objet tellement effrayant. A proposito di non fiction, cioè di scrivere appunto in modo romanzato fatti veri, fatti di cronaca, lei dice chiaramente anche in questo libro, ma l'ha ripetuto anche diverse altre volte, che lo scrittore conta. Cioè è come un esperimento scientifico. L'occhio di chi fa l'esperimento influenza l'esperimento stesso. Quindi è chiaro che lo scrittore ha una sua importanza, diciamo, nel racconto della non fiction. Invece il lettore che parte ha? Oui, sur le premier point, c'est vrai que je crois pas beaucoup à l'objectivité. Sì, è vero, l'ho detto. Io non credo molto nell'oggettività. Credo invece che lo scrittore si debba assumere la responsabilità della soggettività, perché nel momento in cui scrivo utilizzando la prima persona, c'è un io che si rivolge a un tu, e questo tu è il lettore, che per me è molto importante, anche se non è incarnato in una persona specifica. Ho dei lettori di lezione a cui faccio leggere la prima versione delle cose che scrivo e le loro reazioni sono importanti per me. A volte mi portano a modificare alcune cose. Ma d'une façon générale, le lecteur dans un livre que quand j'essaie d'écrire un livre. Comunque, nel senso più generale, il lettore per me è un pezzo essenziale di tutto il meccanismo. Cerco di anticipare le sue reazioni e sento il dovere di fornirgli tutti gli elementi necessari. So di essere esigente con il mio lettore, ma so anche di dovergli dei riguardi, di dovergli regalare il piacere della lettura e delle informazioni. Questo riguarda, per esempio, libri molto ampi come Limonov o Il Regno, che contengono molte informazioni. Faccio un punto d'onore per il fatto che il lettore non abbia bisogno di consultare Wikipedia. E questo può essere difficile qualche volta, perché io non scrivo testi accademici. Non ci sono note a piè pagina. Devo trasmettere molte informazioni facendole in modo agile. È un compito delicato, che ha un sapore quasi pedagogico. Capisco che la pedagogia non riceva spesso molta considerazione da parte della letteratura, ma per me ha un ruolo importante. La pedagogia n'est généralement pas considérée comme une vertu littéraire très importante, mais moi j'y attache beaucoup d'importance. Quando lei scrive, esprime spesso il suo parere, diciamo il suo punto di vista sui fatti di cui narra, ma spesso racconta proprio cose sue personali, fatti privati. No, diciamo che non ha paura, ecco, di mostrare anche gli aspetti più intimi. Ma quanto, secondo lei, i suoi lettori hanno realmente capito di Emmanuel Carrer? E soprattutto pensa che ci sia qualcosa in particolare che abbiano frainteso o non capito fino in fondo? Allora, cela dit, dans l'ensemble, dans ce livre-là, il y a très peu de choses qui relèvent d'un registre intime. Il y a quelques chroniques comme ça que j'avais écrites il y a. In questo libro in particolare ci sono pochi racconti privati. C'è qualche cronaca, in particolare alcune scritte per una rivista femminile italiana che hanno effettivamente alcuni aspetti intimi. Ma in generale tutti gli articoli raccolti qui guardano verso il mondo esterno, quindi è il mio punto di vista. Davvero ci sono pochi elementi che hanno un registro intimo. Ora, c'è qualcosa di me che sfugge ai lettori? Sì, per forza. Ci sono cose che non dico, io non dico tutto della mia vita ai lettori. Dico delle cose della mia vita se penso che siano pertinenti o se penso che siano di qualche interesse rispetto all'argomento che sto trattando. In fondo ho scritto solo un libro veramente autobiografico, La vita come un romanzo russo. Certo, l'elemento autobiografico appare sovente, ma è un di più, non è il fulcro o l'oggetto del libro. Di tanto in tanto mi pare onesto nei confronti del lettore che lui sappia un po' di più di chi gli sta raccontando la storia, anche se il narratore non è il soggetto principale. Alcune cose semplicemente non le dico perché penso che non riguardino il lettore. E ci sono poi tutta una serie di elementi che sfuggono anche a me stesso, perché sono come tutti. Ci sono cose di me stesso sulle quali sono assolutamente cieco. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un tas de choses de moi-même sur lesquelles je suis certainement très aveugle.